Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che si impegna a capovolgere l'agenda delle notizie, mettendo gli altri animali in pole position in ogni tipo di dibattito riguardante l'attualità, la cultura, l'economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità. Cerchiamo insomma di capire insieme come sarebbe la vita sulla Terra se negoziassimo un nuovo patto di convivenza più equo con i viventi non umani. Questa è la puntata numero 650, nella quale parleremo di mattanze vichinghe, di un libro antispecista, di quaglie e di quagliodromi e dell'esito finalmente definitivo del processo a un gruppo di attivisti contro la vivisezione. Ci sarà spazio per una ricetta e per tanta buona musica. Questo sarà a cura del nostro Gabriele Palloni, chef e DJ. Speriamo di avervi incuriosito. Cominciamo la nostra carrellata di notizie dal nord Europa e voliamo alle isole Faroe, un arcipelago a governo autonomo che fa parte del regno di Danimarca e che da anni scandalizza il mondo con una sanguinaria mattanza di delfini chiamata Grindadrap. Una usanza tribale, un rito di iniziazione decisamente machista, forse di origine vichinga. Nella tradizione faroese, i pescatori, tutti maschi, circondano i delfini con un ampio semicerchio di barche da pesca e li conducono in una baia poco profonda, dove gli animali si arenano. A quel punto, gli uomini, molti dei quali sono giovani, uccidono i cetacei con le lance e con i coltelli. I delfini vivi attendono il loro turno e vedono i loro compagni morire. Un'agonia, un po' come accade nelle tradizionali tonnare. Nello scorso autunno i numeri sono stati impressionanti, sono stati uccisi, pensate, 1423 delfini dalla coda bianca, suscitando l'indignazione internazionale, perché le immagini scioccanti che mostravano i delfini che si dimenavano in un'acqua diventata tutta rossa di sangue, mentre centinaia di persone dalla spiaggia assistevano, hanno fatto il giro del web provocando un'ondata di sdegno. Ebbene, il 10 luglio scorso il governo delle isole Faroe ha annunciato che limiterà temporaneamente a 500 all'anno il numero di delfini che gli abitanti possono cacciare. Il governo dell'arcipelago ha riconosciuto che il numero di cetacei abbattuti lo scorso anno è stato insolitamente alto, una cifra che è improbabile sia sostenibile nel lungo termine. Per difendersi, i danesi sostengono che utilizzando lance speciali che uccidono le balene in meno di un secondo, viene loro evitata l'agonia. Ma non è un argomento convincente. La ONG Sea Shepherd da sempre sottolinea che l'uccisione dei delfini e dei mammiferi di mare è raramente veloce, come fa credere il governo delle isole Faroe. Le Grindadrap possono trasformarsi in massacri molto prolungati. Ricordiamo che da anni l'associazione animalista e ambientalista Sea Shepherd denuncia questo massacro come moltissimi altri massacri di vita marina in tutto il mondo. Anche in Italia Sea Shepherd è attiva, specialmente in Sicilia, con il programma Operazione Siracusa. Ma che strano sogno di un vulcano e una città. parliamo adesso di cultura, come facciamo ogni volta che la nostra redazione ritiene un libro o un film degni di essere recensiti. E di solito in quanto portatori di elementi di novità o di sensibilità rivolte al futuro. Ci piacciono gli autori che si pongono il problema non semplice di immaginare una società umana disposta a ridiscutere il suo ruolo nel mondo, a ridiscutere le gerarchie, le abilità, le identità. Ed eccoci qua perché è uscito nella collana Culture Radicali di Meltemi Editore il saggio di Marco Reggio Cospirazione animale tra azione diretta e intersezionalità. Marco Reggio è un attivista per la liberazione animale, ma è anche un pensatore, un teorico che da anni naviga nel tumultuoso dibattito intorno all'antispecismo e ci propone le sue riflessioni. Facciamo a Marco Reggio qualche domanda affinché sia lui stesso a raccontarci qualcosa dei contenuti del libro. Marco, Cospirazione animale è un libro che affronta questioni teoriche anche complesse, cercando però di essere comprensibile e di farsi capire sia da chi è già sensibile all'antispecismo che da chi non lo è o non lo è ancora. Che metodo hai usato? Quale ruolo hanno giocato gli aspetti emotivi dell'attivismo? Per esempio, quando affermi che l'antispecismo è imbarazzo, meraviglia e turbamento. Ma guarda, sono partito sostanzialmente dagli episodi di attivismo vissuti da me in prima persona o da persone a me vicine, insomma, su cui si è discusso nel mio ambiente, che permettono di fare una serie di discorsi, che permettono di essere analizzati con gli strumenti non solo della teoria antispecista, ma anche delle teorie queer, della critica decoloniale, dei disability studies e così via, dell'ecologia politica e di aprire a tutta una serie di domande, per esempio il caso di Agitu, che è una donna etiope uccisa a fine 2020, quindi un lutto politico, un femminicidio in cui c'è dentro il colonialismo, una storia coloniale, di razzializzazione, eccetera, in cui però questa donna era anche e si era emancipata come allevatrice, quindi come dire, la postura, il posizionamento antispecista non può non rilevare questo aspetto e criticare l'allevamento, tanto più quello delle capre felici in questo caso. E quindi questo è uno degli esempi che mostrano tutta una serie anche di contraddizioni. Per esempio emerge anche con una storia un po' più vecchia, diciamo, che riguarda le lotte contro la vivisezione di una decina d'anni fa, il conflitto tra pazienti della medicina, soggetti disabili, disabilizzati e animalisti, antispecisti, antivisezioniste, eccetera, eccetera, dove effettivamente un conflitto c'è, però rileggendolo con gli strumenti che abbiamo adesso, che forse sono un po' più ampi, diventa abbastanza interessante. Poi, diciamo, ovviamente anche ci sono le storie degli animali che si ribellano, che, e anche degli umani, diciamo, che messe a confronto ci dicono delle cose, anche contro il paternalismo antispecista e quello di altri movimenti. C'è la questione evidentemente dell'ecologia, che, come dire, non si può eludere oggi, e gli aspetti emotivi sono emersi in maniera prepotente, anche forse oltre le mie intenzioni, perché ovviamente, come dire, quello di cui mi sono accorto, che credo passi nella lettura, spero che passi, è che sostanzialmente poi adottare uno sguardo antispecista, al di là della teoria o della formulazione che utilizziamo, è sempre un po' uno sguardo di rottura che da una parte imbarazza, perché pone imbarazzo anche nell'interlocutore o interlocutrice, perché pone sempre questo tema della violenza sugli animali in una società che sostanzialmente è sempre pronta a dire ci sono problemi maggiori, più urgenti, e quindi appunto è anche fonte di turbamento, però in un certo senso è anche fonte di meraviglia, perché poi in realtà quando adotti questo sguardo c'è proprio un riorientamento gestaltico quasi, per cui ti rendi conto che tutta una serie di letture, di questioni, eccetera, io cito per esempio il Frankenstein di Mary Shelley, in cui la tematica, la presa di posizione per il vegetarismo, un vegetarismo femminista, pacifista, eccetera, è evidente, ma in realtà sfugge spesso al lettore, me compreso, diciamo, finché quel lettore non ha un posizionamento politico dalla parte degli animali non umani, in sostanza. E quindi è chiaro che tutto ciò porta, ovviamente, dal mio punto di vista, non tanto a trovare delle facili risposte o delle ricettine, ma a moltiplicare una serie di domande per un attivismo, come dire, che si schiera chiaramente dalla parte degli animali ribelli, ma che è consapevole delle molte contraddizioni. Cospirazione animale tra azione diretta e intersezionalità di Marco Reggio, collana Culture Radicali, Meltemi Editore, 210 pagine, prezzo di copertina 18 euro. Raccogliere ortiche, non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Esemplare della lucertola nera delle Eolie, uno tra i rettili a più alto rischio di estinzione in Europa, inserita nel 2013 nella lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, è stata avvistata e fotografata dai biologi di Filicudi Wildlife Conservation durante un campo di ricerca sull'isolotto di Strombolicchio. Altri esemplari di questa lucertola, circa una decina in tutto, vivono sulla canna di Filicudi, sullo scoglio Faraglione a Salina e nella zona di Vulcanello, nell'isola di Vulcano. La lucertola delle Eolie, endemica dell'arcipelago eoliano, è lunga fino a 25 cm ed è tendenzialmente più scura rispetto alle sue sorelle. Infine, è insettivora. Si nutre di coleotteri, imenotteri, variando in estate con alcune componenti vegetali. Con l'immagine della lucertola delle Eolie, il Ministero dello Sviluppo Economico nel novembre dello scorso anno ha emesso un francobollo celebrativo di Europa 2021. Noi facciamo il tifo per questo piccolo rettile che, nonostante le enormi difficoltà, resiste e lotta per non estinguersi. Morando figlio si può, dagli tuoi occhi se no, che torno a fare a questa porta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Che cosa accomuna la lucertola nera con i pomodori secchi? Entrambi devono trascorrere lunghe giornate sotto al sole, ma per la ricetta di oggi vi serviranno solo i pomodori. Gli ingredienti per 4 persone per il pesto rosso di pomodori secchi e mandorle sono 100 g di pomodori secchi, una cipolla di Tropea, 50 g di mandorle pelate e tostate, qualche foglia di menta, qualche foglia di basilico e qualche foglia di origano fresco, 300 g di passata di pomodoro, olio extravergine di oliva, sale, pepe, e se lo gradite, del peperoncino. Mettete i pomodori secchi in ammollo con un bicchiere di acqua tiepida e lasciateli ammorbidire. A parte pulite e affettate la cipolla di Tropea, quindi fatela scottare in un tegame con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate soffriggere qualche minuto. Scolate i pomodori secchi e conservate l'acqua di ammollo. Unite i pomodori e le mandorle tostate alla cipolla e fate andare per 5 minuti. Quindi aggiungete la passata di pomodoro e l'acqua di ammollo. Aggiustate di sale e pepe e se volete anche un po' di peperoncino e lasciate sul fuoco a fiamma bassa fino a quando il tutto si sarà ben concentrato. Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Pulite le erbe aromatiche e unitele alla salsa. Tritate il tutto con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una bella crema liscia. Potete utilizzare il pesto come salsa da aperitivo, come condimento per pasta, cereali o per delle bruschette. Un gruppo di persone è entrato nel quagliodromo e ha devastato arredi e attrezzature. Tra le scritte che sono state lasciate sui muri, oltre al simbolo di ALF, Animal Liberation Front, ce n'è una che ci ha colpito ed è la scritta «I violenti siete voi». È lo stile di ALF, appunto, un'organizzazione libertaria, orizzontale, senza sedi, senza iscritti, fatta da semplici persone che decidono di attivarsi in modo sporadico e spesso illegale per la liberazione di animali, vittime di prigionia, schiavitù, senza alcun tipo di violenza però verso le persone. Uno stile che può essere naturalmente criticato, perché si tratta pur sempre di illegalità, ma quello che ci interessa approfondire qui sono i motivi che portano queste persone a prendere di mira un quagliodromo. Intanto perché forse non tutti sanno cosa siano i quagliodromi. Sono luoghi recintati e all'aperto in cui vengono liberate quaglie cresciute in gabbia, quindi in cattività, inesperte del territorio e della dura battaglia per la sopravvivenza. Sono animali che non conoscono i cacciatori, non conoscono i cani e quindi non hanno scampo. Sono delle condannate a morte e la loro esecuzione può durare pochissimo tempo oppure un tempo più dilatato, a seconda delle loro capacità e anche delle capacità del cane che le insegue. Le quaglie sono uccelli migratori e già questo dovrebbe rendere intuitiva la sofferenza estrema di questi animali nel crescere in cattività in una gabbia, destinati come sono a essere usati per allenare i cani nel periodo in cui la caccia è chiusa. I quagliodromi ed altri centri cinofili sono gestiti di solito dalle associazioni di cacciatori, come per esempio Federcaccia, associazioni difese strenuamente dai politici di tutti gli schieramenti, da destra a sinistra. Vediamo cosa scrive della quaglia il sito internet di un'associazione di cacciatori. La quaglia è un selvatico utilizzato come metro di giudizio per le prove, sia classiche che attitudinali, per il cane da ferma, come da regolamento. È un animale che ha fatto e proclamato tantissimi campioni nelle diverse categorie e razze da ferma. È stato e sarà ancora per tanto tempo un selvatico adatto all'istruzione e al completamento dei cuccioli, fungendo da palestra di allenamento per i cani già esperti di caccia. Dunque la quaglia, ma anche il cane, sono animali utilizzati al fine del puro divertimento umano. La caccia, infatti, ormai, specialmente da questa parte del mondo, non è assolutamente più praticata per nutrirsi. È uno sport, uno svago, e sull'altare di questo svago, i selvatici, ma anche tanti cani, devono continuare a essere sacrificati. Agli attivisti di Animal Liberation Front che hanno vandalizzato il quagliodromo di Bollate per puntare un fascio di luce sul triste destino delle quaglie, uno stile completamente diverso è quello degli attivisti e delle attiviste che il 20 aprile del 2013 occuparono, a volto scoperto, gli stabulari della facoltà di farmacologia dell'Università di Milano, per poi intavolare una lunga trattativa al termine della quale ebbero la possibilità di liberare 400 topi e un coniglio tenuti prigionieri per eseguire sui loro corpi esperimenti scientifici di ogni genere, dolorosi e mortali. L'occupazione ebbe grande risonanza mediatica perché seguì di poco la vicenda dei cani Beagle di Green Hill. Con questa occupazione gli attivisti volevano affermare che i topi, come i cani, sono animali sensibili, che desiderano vivere, con corpi vulnerabili, che soffrono dello stesso dolore e che sono allo stesso modo degni di rispetto, nonostante i topi ottengano molta meno simpatia rispetto ai docili cani Beagle. L'occupazione ha scalfito il silenzio che circonda la questione della vivisezione e in quella occasione avemmo modo di sapere che in quei laboratori nel registro di carico e scarico si indicava chiaramente che circa 34-37 kg di topi morti alla volta venivano buttati come rifiuti, come scarti. Ma erano gli scarti di un sistema, a nostro avviso, ingiusto, che ritiene che il fine giustifichi i mezzi. Un aspetto veramente aberrante di una scienza che rifiutiamo di accettare. E per fortuna anche all'interno del mondo scientifico comincia a sentirsi una voce diversa. Il processo penale si concluse con le condanne degli attivisti e delle attiviste a 18 mesi, mentre il processo civile, quello in cui il farmaceutico chiedeva un enorme risarcimento, si concluse a favore degli attivisti, che nulla dovettero risarcire. Non molte settimane fa, proprio la causa civile stava proseguendo in appello, con un'ulteriore richiesta di risarcimento danni, ma poi, improvvisamente, si è diffusa la notizia del ritiro dell'Ateneo e del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR. Essendosi ritirati, il processo è quindi concluso e gli attivisti possono tirare un sospiro di sollievo. Abbiamo chiesto un commento a Giuliano Floris, attivista del coordinamento Fermiamo Green Hill, che quel giorno entrò nello stabulario e che ne uscì portando con sé verso la libertà numerosi animali. Finalmente si può dire che è finita. Di nuovo vivisettrici e vivisettori hanno dovuto arrendersi e rinunciare alle loro assurde richieste di risarcimento. L'ultimo atto di causa civile, infatti, che stava proseguendo in una ulteriore richiesta in appello, è franato su se stesso. L'Università Statale di Milano, il CNR, dopo anni di insistenza nel richiedere un risarcimento di 600.000 euro per l'occupazione dello stabulario dove vivevano prigionieri migliaia di topolini e alcuni conigli, si sono ritirati. Questo perché già in primo grado l'università statale era stata costretta a pagare a noi, lei, le spese processuali. Il giudice è stato chiaro in appello che se continuavano su questo passo rischiavano di pagare ancora di più e quindi ha chiesto alle parti se volevano rinunciare a questo processo. Noi ovviamente abbiamo detto subito di sì, loro ci hanno dovuto anche pensare un po' di tempo, però alla fine hanno deciso di ritirarsi. Noi siamo contentissimi, gli animali liberati quel memorabile giorno hanno vinto. Avere il coraggio di mostrare la semplice e ordinaria brutalità della vita quotidiana delle cavie di laboratorio e rivendicare il gesto in tribunale ci ha provato sicuramente, ma lo rifaremmo anche domani. È la cosa più giusta che abbiamo fatto, anche se ha significato rischiare tanto. Ovviamente il pensiero va costantemente a tutti gli animali ancora imprigionati negli stabulari. Ci tengo a ringraziare chi ci ha difeso, a me Francesca nel penale, quindi Maria Cristina Giussani, in sede civile Stefano Azzolina, che hanno sostenuto, senza proporre strategie difensive che non sarebbero state coerenti con la rivendicazione appunto dell'azione svolta quel giorno e quindi mai accettato, rivendicazione che invece hanno appoggiato pienamente e apertamente. Ci tengo a ringraziare chi ci ha sostenuto in tutti questi anni, compreso voi di Restiamo Animali. Questo esito mostra inequivocabilmente che essere coerente, sincero e deciso alla lunga paga e comunque è l'unica via. Ora spetta a tutti e tutte trarre le conclusioni. Riflettendo e rileggendo pagine su pagine di bugie, le scuse della controparte che sembrava inattaccabile ma che invece è caduta più e più volte, dal penale fino all'ultimo atto del civile. Questa storia insegna che uno di noi può davvero fare la differenza. È la cosa giusta, al momento giusto. Questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 651 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.